Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Ahimè, insomma, sono cronache purtroppo molto simili. Anche oggi un brutto scivolone dei mercati, soprattutto Parigi, meno 4,1%, ma Milano ha ripreso a perdere più del 3%, meno 3,42%. Francoforte meno 2,35%, Londra meno 1,70%, l'America meno 0,90%. Il fatto che Londra, oltre che gli Stati Uniti, perda due punti in meno rispetto a Milano, anche 2,5 punti, e 3 punti quasi rispetto a Francoforte in meno, la dice lunga sul fatto che, insomma, le tensioni sono tutte sui debiti europei e sulle banche europee. Perché dico banche? Perché non c'è solo la Grecia. Il nostro GR vi ha anticipato che, insomma, c'è l'attesa per la cosiddetta troica di capire se l'Europa continuerà a finanziare il debito greco e finanziare la Grecia, ma c'è anche il timore sulle banche francesi, e non è infatti un caso che Parigi oggi rubi il poco invidiabile scettro a Milano quanto a borsa, che cala di più. Banche francesi che trascinano con sé però anche tutte le altre banche, oltre al ragionamento che se si attaccano le obbligazioni dei vari paesi europei, soprattutto Italia in questo momento e Spagna, le banche italiane sono piene di obbligazioni italiane, come anche, se volete, giusto che sia, che una banca nazionale compri il debito nazionale. Ebbene, problemi e una diminuzione del prezzo delle obbligazioni italiane si va a ripercuotersi a lungo andare sul bilancio delle banche stesse. Unicredit scende dai livelli che obiettivamente non vedevamo, 69 centesimi di euro, qui siamo a un livello quasi simile a quello di dopo Lehman Brothers, meno 9,35%, ma anche Intesa San Paolo ormai viaggia ampiamente sotto l'euro per azione, 87 centesimi per azione, meno 8,30%, Fondiera Assai meno 7,60, Buzzunice meno 6,30, Telecom Italia meno 5,16, Ansaldo STS meno 4,91, Mediaset meno 4,30, A2A meno 4,11%. Citiamo solo chi perde più del 3% e mi riferisco a Mediolanum meno 3,73%, Saipem meno 3,62%, Mediobanca meno 3,55%, Ubibanca meno 3,5% anch'essa, come in pregilo. Il 3,30 lo perde Exor, il 3,20 Finmeccanica e il 2,90 Enel. Fiat oggi perde, ma meno della media dell'indice, nel senso che Xor perde il 3,31, ma Fiat Auto il 2,60 e Fiat Industrial, quindi camion e trattori, meno 1,15. Il fatto che siano Unicredit e Intesa a perdere così tanto, quasi 3 volte quello che perde l'indice, la dice lunga su dove si stanno concentrando le vendite. Tant'è che gli altri bancari, pur non andando bene, Ubibanca appunto meno 3,5, ma obiettivamente perdono molto meno rispetto alle due principali banche italiane, perché anche il Banco Popolare perde il 2,50% e poi un titolo come la Popolare di Milano perde lo 0,86%, il Monte dei Paschi perde l'1,80%, quindi, insomma, c'è veramente un divario enorme tra quello che perdono Intesa e Unicredit e quello che perdono invece le altre banche italiane. Di questo parleremo in apertura, ossia parleremo di Francia e soprattutto Grecia, poi ci concentreremo di nuovo sulla manovra e poi anche della richiesta che è arrivata oggi. L'Italia si è unita a altri sette paesi, per chiedere che il budget, cioè i soldi a disposizione dell'Unione Europea nel periodo 2014-2020, si sta discutendo infatti del budget per l'Unione Europea, vengano ridotti, insomma, tra i 50 e i 100 miliardi. L'Unione Europea ha chiesto 1.080 miliardi per 6 anni. Dentro questo c'è di tutto, c'è il progetto Galileo, c'è la PAC, quindi anche la politica agricola comunitaria, ma ci sono anche le spese di Bruxelles, e visto che parliamo sempre della casta, dei costi della politica italiana, insomma, ne parleremo con chi ha fatto formalmente la richiesta per il governo italiano, il sottosegretario agli esteri Raffaele Mantica, ne parleremo alle 18:05, perché, insomma, per capire se non si possa limare qualcosa anche da Bruxelles. Calcolate che l'Italia è, assieme agli altri 7 paesi, quindi Austria, Germania, Finlandia, Francia, Olanda, Svezia e Gran Bretagna, è contribuente netto dell'Unione Europea. Vuol dire che noi diamo più soldi di quanti non riceviamo sotto forma anche di aiuti. È vero che poi non li sappiamo spendere in alcuni casi, però noi diamo 5 miliardi di euro in più di quanto non riceviamo. E comunque 1000 miliardi in 6 anni sono circa, insomma, 180 miliardi all'anno, di cui l'Italia vi contribuisce per qualche decina di miliardi, non è poca cosa. Ripeto, ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda gli altri mercati, andiamo subito con la notizia in breve. Anche la produzione industriale italiana purtroppo oggi segnala un brutto dato, mi sa che oggi il gufo lo risvegliamo dal suo torpore estivo. E soprattutto notiamo anche di nuovo tensioni sul prezzo della benzina, anche se il petrolio continua a essere ampiamente sotto i 90 dollari al barile. Chissà se non è già l'effetto della Robin Tax o un'anticipazione dell'IVA, ma sono pensieri maliziosi, privi di ogni fondamento. Le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, ha ragione l'ascoltatore che scrive, insomma, della serie ce n'è sempre una, è vero, ce n'è sempre una. Venerdì sembrava una giornata tranquilla, poi è arrivato il membro tedesco a modificare la giornata e oggi anche le banche francesi. Ricordo quell'espressione di Giulio Tremonti che diceva: questa crisi assomiglia a un videogame, sconfiggi un nemico e se ne presenta un altro. Adesso Tremonti non è più così in auge, anche perché insomma qualche passo falso l'ha compiuto tra luglio e agosto. Andiamo avanti con le notizie. Dicevo, il petrolio è sotto gli 86,70 dollari al barile ed è in calo, però insomma la benzina registra ancora rialzi, sfiora 1,63 euro al litro, tutti a cavallo del fine settimana, e 1,68 euro nei valori massimi. Cioè 1,63 è la media, il diesel ormai è sopra 1,50 euro al litro, con picchi di circa 1,54 euro. Io non so, siamo un po' duri di comprendonio noi, per cui ogni volta vi riproponiamo il calcolo. La benzina oggi costa 1,63 euro, il prezzo del petrolio è 86 dollari al barile, ossia un barile costa in euro 63 euro, visto che l'euro è 1,36. 63 euro per un barile. Nell'agosto del 2008 il petrolio era a 148 dollari, al rapporto di cambio di allora 1,58 euro ci costava 93 euro al barile, eppure la benzina costava di meno, 1,56 euro, cioè un centesimo in meno. Ripeto, perché vedo già i messaggi: costa adesso 1,63 euro, costava 1,56 euro, costa 1,63 euro con 63 euro il prezzo del barile, e allora valeva 93 euro al barile, cioè costava 30 euro in più il barile, il petrolio, nel 2008 ad agosto, eppure la benzina era appunto a 1,56 invece che 1,63. Cosa volete che vi dica? Lontani dalla crisi, potremmo intitolare una rubrica, giusto per rosicare un po'. Lontani dalla crisi, perché? Perché se oggi l'Italia segna una produzione in luglio, una produzione industriale in calo dello 0,7% sul mese, ma dell'1,6% sul luglio del 2010, è la prima volta che la produzione industriale va in calo dal dicembre del 2009, da quando c'è stata quella ripresina dell'economia, dovuta soprattutto all'export. E a calare, o meglio a crollare, è proprio il settore tessile e abbigliamento meno 20%, pelle, accessori, tessile e abbigliamento, dato corretto per gli effetti di calendario. Male anche la chimica, meno 5%, meccanica bene invece, meccanica industriale più 9,5%, siderurgia più 5%, elettronica più 2,8%. Dicevo, se noi registriamo per la prima volta dal dicembre del 2009 un calo nella produzione industriale, a segnalare che il rallentamento è in corso. Il rallentamento è in corso non solo in Italia, in tutta Europa, tant'è che tutte le previsioni sul 2011-2012 sono state riviste a ribasso, l'Italia tra lo 0,5 e lo 0,7%. Ci sono paesi che la crisi manco sanno cos'è. La Turchia più 8,8% nel secondo trimestre. È un po' in calo rispetto al primo trimestre, averne di cali così, perché il primo trimestre fece un record, più 8,8%. Nel primo trimestre di quest'anno la Turchia ha superato come crescita anche la Cina, come dato sulla crescita del PIL. E poi India, insomma, che annuncia un piano infrastrutturale che, se lo sente l'ANCE, capito, si spara per l'ANCE, la soluzione dei costruttori italiani. Perché? Perché da noi il mondo delle costruzioni ha un calo intorno al 20%, dovuto appunto anche ai tagli delle opere pubbliche. L'India ha lanciato oggi un piano da mille miliardi di dollari tra il 2012 e il 2017 per le infrastrutture, dove l'India è obiettivamente più in ritardo rispetto alla Cina. Ha detto il primo ministro Manmohan Singh, l'India vuole arrivare a crescere del 9%, e quindi questo piano serve anche ad aumentare la crescita del PIL. Andiamo avanti, ascolteremo anche un passaggio di un intervento che sta compiendo il presidente americano Barack Obama ancora sul tema del lavoro. Parla tanto Obama, i risultati sono pochi, ma lui continua a intervenire. Mentre per quello che riguarda l'Europa, e qui ci avviciniamo al tema di apertura, abbiamo da segnalare le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Europea Trichet, che dice: le banche centrali sono pronte a una nuova iniezione di liquidità e quindi a comprare debito attraverso le obbligazioni immettendo contanti in Europa. Abbiamo ancora molte munizioni necessarie, ha detto Trichet. Basta che poi non resti l'ultima pallottola, perché sappiamo che quella in alcuni casi serve per altre cose, ma al di là della battuta. E poi un appello alla politica: porti avanti le decisioni che ha preso. L'economia mondiale sta rallentando, ma non vediamo rischi di recessione. Attenti invece ai rischi di inflazione, ma dov'è sta inflazione? E deflazione, quella invece a nostro avviso è più probabile. La scorsa settimana la Banca Centrale Europea ha comprato 14 miliardi di obbligazioni, molti dei quali spagnoli, praticamente quasi tutte spagnole e italiane, e anche oggi sta comprando titoli di Stato italiani. E purtroppo, nonostante l'acquisto della Banca Centrale Europea, il rendimento delle nostre obbligazioni è salito di molto, e ogni volta che il rendimento sale, ripeto, come per un privato, più la banca ti chiede un interesse per darti un finanziamento, più a rischio tu sei. Ebbene, più sale il rendimento delle nostre obbligazioni, dei nostri BOT, BTP, più vuol dire che noi siamo a rischio, perché dobbiamo offrire un rendimento più alto per trovare dei compratori. Ebbene, oggi abbiamo collocato 11 miliardi e mezzo sul mercato a tre mesi, bot a tre mesi, la tranche a un anno, il tasso medio è balzato al 4,15% contro il 2,95% di agosto. Un punto percentuale è tanta roba, perché se voi lo calcolate sull'intero PIL, un punto percentuale sono circa 15 miliardi di euro. E anche ai tre mesi il tasso medio è salito dall'1% all'1,9%. Qui c'è un rialzo, insomma, di quasi di 70% sul tasso a un anno e di quasi 90% sul tasso a tre mesi. Allora, vediamo di capire. Giustamente volete sapere dello spread, ossia la differenza tra quanto rendono le nostre obbligazioni e quanto rendono quelle tedesche. Ahimè, è salito di nuovo a 380 punti, cioè il livello pre-approvazione della finanziaria al Senato, pre-fiducia sulla manovra finanziaria, e poi è sceso a 375, insomma, resta alto, altissimo. Vedo che alcuni in gufo non lo vogliono, e va bene, a inizio settimana possiamo anche risparmiarlo, tanto insomma. Spero che resti in soffitta con i tempi che corrono. Dubito, partiamo col primo tema. Al di là del rischio percepito ancora molto alto sul debito italiano, oggi il rischio si sposta, per modo di dire, in questa giostra per cui ogni giorno ce n'è una e ogni giorno si colpisce qualcuno, si sposta sul fronte greco e fin lì, diciamo, ce lo aspettavamo, ma anche sul fronte francese. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, fronte francese e fronte greco, la crisi 2.0 l'hanno battezzata molti osservatori, a partire da Fabrizio Galimberti. Partiamo dalla Grecia perché era quella più attesa, ma attenzione, dalla Francia stanno arrivando però i dolori più forti per il mondo bancario europeo. Meno 9, meno 10 sempre Unicredit, è fissa lì, e meno 9,50 Intesa San Paolo, mamma mia. Vittorio D'Arold, ospite in studio e da sempre segue per il Sole 24 Ore la Grecia. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Saluto però anche Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera anche a te Marco. Buonasera. Allora, Vittorio, oggi si sapeva che nel fine settimana sarebbero arrivate decisioni importanti, e soprattutto la decisione della Troica. Il governo greco ieri ha annunciato una nuova tassa sulle proprietà immobiliari per mostrare la sua volontà, ma insomma, qual è il dubbio e perché la Troica, che non è una offesa, perché la Troica non ha ancora sciolto, diciamo così, l'enigma. Aiuterà o non aiuterà? Si può aiutare o si deve smettere di aiutare la Grecia? Allora, la Troica deve decidere di dare 8 miliardi entro settembre, che è la rata prevista del primo piano ancora che abbiamo in vigore, che è di 110 miliardi circa. Questi 8 miliardi però sono previsti che vengano concessi solo nel rispetto del calo del deficit. Il deficit purtroppo invece di calare è aumentato, dal 7 è andato all'8,7. Quindi il problema è che la Troica ha sbattuto la porta e se n'è andata dicendo: finché non rimettete i conti in ordine noi non vi diamo gli 8 miliardi. Senza gli 8 miliardi in pochi giorni la Grecia non paga gli stipendi e non paga più i bond, quindi è default. Allora cosa ha fatto il nostro primo ministro Papandreou? Con tutti, adesso io voglio dire, è vero che il lapsus può essere freudiano, ma insomma, loro hanno Papandreou, noi abbiamo Berlusconi. Prego. È andato a Salonicco, che è appunto la seconda città più importante dal punto di vista economico, e ha lanciato il messaggio: noi non vogliamo uscire dall'euro, noi rispetteremo i patti, e quindi ha detto: noi faremo quello che abbiamo promesso, però mancano i soldi. E quindi si è inventato, ha tirato fuori dal cilindro, una supertassa patrimoniale sulla casa. In pratica, chi ha una casa in una buona zona di Atene, diciamo un quartiere bene, paga 10 euro a metro quadro, quindi 100 metri, 1000 euro entro dicembre. Questa è la supertassa che ha inventato. Beh, devo dire che, considerato che la Grecia ci batte sull'evasione e ci batte sul nero e ci batte anche sui diritti del pubblico impiego, una tassa, così, vederla da fuori, la Grecia ha dei tassi di evasione che sono doppi a quelli italiani, che già sono da record europeo, gli scontrini sono più rari di certi reperti archeologici ad Atene, e insomma una tassa sull'immobile, forse una patrimoniale, perché di fatto è una patrimoniale sugli immobili, forse è il male minore. C'è anche una nuova manovra da 2 miliardi di euro annunciata, no? Sì, esattamente questo, è proprio l'incasso che l'incasso è complessivo del patrimoniale. Poi ci sono naturalmente i soliti aumenti di sigarette, carburanti, tanto per arrotondare, ma insomma arriviamo ai 2 miliardi che sarebbero quello necessario per avere la famosa tranche appunto di 8 miliardi. Come fare a incassare rapidamente? Hanno pensato di utilizzare le bollette della luce, e quindi faranno appunto una cosa molto semplice: ai vari proprietari che hanno un contatore arriverà già il conto già fatto per pagare la supertassa. presto fatto i lavoratori. Ah, questo è carino, cioè loro non andranno semplicemente sulla bolletta. Esattamente, loro arriverà a perché casa. Perché è difficile abitare in una zona di lusso e non avere l'elettricità. Esattamente. Tutto. E quindi chi ha praticamente un contatore legato a una casa, un immobile, perché pagheranno tutti gli immobili, dal 5 euro al metro quadro, diciamo le più modeste, fino al 10 di quelle più agiate, e tutte quante quindi pagheranno. Questo sistema è molto pratico, salvo che i sindacati appunto del Nenel Greca, la DIPA, hanno già detto che loro non fanno i cowboy, gli sceriffi per conto del governo, e quindi cominceranno a esserci dei problemi. Sì, ecco, anche forse come tasso di sindacalizzazione la Grecia ci batte. Comunque, no, importante quando tu ricordavi, posso fare poi passo a Marco Mussanesi, come storicamente dalla prima guerra mondiale c'è un'avversità totale tra Grecia e Turchia, chissà quanto rosicano oggi i greci a vedere che la Turchia ha fatto un secondo trimestre in rallentamento rispetto a quello record del primo, dove batté anche la Cina, ma insomma cresce dell'8,8%. Sì, perché la Turchia ha i conti in ordine, quindi ha messo in ordine i propri conti e quindi potrebbe entrare nell'euro, perché ha tutti... Figurati se esce la Grecia e entra la Turchia nell'euro, non oso pensare cosa succede lì. E dopodiché vende e esporta una buona industria manifatturiera, viene appunto a essere una delle migliori dell'area e si è spostata, quando ha visto che l'Europa cominciava a avere dei rallentamenti, verso il Medio Oriente e l'area diciamo asiatica, e quindi è diventato un vero gigante economico dell'area, quindi ha fatto una mossa molto azzeccata. Allora, su questo devo dire che ormai il rendimento dei titoli di Stato greci a 2 anni, se dovessero essere collocati, renderebbero il 57%. Cioè, voi immaginate uno che va in banca, chiede 1000 euro di prestito, gli dicono ok, ma me ne devi ridare 1500, altro che strozzinaggio. E questo la dice lunga sul fatto che la Grecia tecnicamente, prendiamoci sul serio, è già fallita. Cioè un paese come un privato che per ottenere un prestito deve offrire il 57% di interesse, diciamo, è già fallito, Vittorio. Sì, esattamente, il biennale è arrivato al 57%, cioè il tasso di interesse è maggiore del prezzo a un certo punto, quindi è una cosa veramente che dà il segnale della crisi, anche perché noi, per capire ancora la situazione greca, abbiamo un concambio, uno swap che sta per essere appunto fatto solo con le banche, i grandi investitori privati, che prevede questo swap, una situazione di questo tipo, una perdita del 21%, quindi andremo ad avere, in realtà il mercato sta ragionando che il 57% del biennale è inferiore alla perdita che avrebbero col 21%. Quindi ci sono grosse, diciamo così, il mercato comincia ad avere dei dubbi sul fatto che questo swap sia conveniente, quindi che le banche decidano di aderire a questo swap. Ecco, su questo registriamo anche che lo spread, la differenza con quanto rende l'equivalente obbligazione tedesca, noi siamo tornati al 370 punti, 380, e invece lì sono a 2000 punti, cioè il 20%, e che la Germania oggi non si è fatta mancare nulla, perché è vero che il ministro all'economia tedesco ha detto quello che ci interessa è la stabilità dell'euro, vogliamo che la Grecia resti nell'euro. Però Schäuble ha detto che bisogna stare attenti perché, insomma, senza l'ok della Troica andiamo a rivedere tutti gli aiuti. E poi ancora sempre sulla Grecia sono arrivate altre dichiarazioni dalla Germania, sempre molto scettiche. Infine ci ha pensato Moody's a mettere una buona parola, perché ha detto i timori di un fallimento, di un default della Grecia sono adesso più forti. Non ce l'abbiamo fatta, Moody's, poi dare il gufo alle agenzie di rating a me piace tantissimo, per cui il gufo è riapparso, ha proprio epidermicamente annoia le agenzie di rating. Giustamente scrive un ascoltatore, non si potrà più dire cose turche ma si dirà cose greche, si arrabbiano questi. E poi, allora, noi non citiamo mai complimenti perché non è elegante, citiamo alcune critiche, c'è chi dice ma insomma smettetela mai sul nocciolo del problema, continuate a mettere la testa sotto la sabbia, ce lo spieghi lei qual è il nocciolo del problema. e altri dicono, ma insomma, cercate sempre di giustificare i cali di borsa. No, non è che giustifichiamo, cerchiamo di spiegarli. Marco Mussanè, oggi la notizia vera, adesso devo dire che Milano sta chiudendo peggio di Parigi, peccato, stavamo per essere i secondi una volta tanto, meno 3,90%, Parigi meno 3,86%, comunque la notizia vera riguarda anche le banche francesi, non è un caso che UniCredit perda l'11%, 68 centesimi di euro. Quali sono i timori sulle banche francesi e c'entra qualcosa quella frase un po' improvvida della Lagarde, ex ministro dell'economia? La settimana scorsa si è lasciata sfuggire, adesso lei ha preso il posto di Strauss-Kahn al Fondo Monetario. Ci sono delle banche europee con dei problemi. Marco. Ma sicuramente le banche francesi sono in una situazione problematica, sono nel mirino in realtà da ormai un mese circa. Tutto è cominciato con l'annuncio del profit warning di Société Générale il 3 agosto, quando appunto il presidente UDA ha ammesso che l'obiettivo dei 6 miliardi di utili nel 2011 non sarebbe stato raggiunto, e da lì in poi effettivamente la situazione è stata molto problematica. Nell'ultimo mese Société Générale ha perso il 22%, ma BNP ha perso il 24%, Agricole il 33%. Ma ci sono in realtà sì un massacro, anche se in realtà c'è la situazione è un pochino diversa tra banca e banca, cioè per BNP Paribas e per Crédit Agricole c'è oggettivamente un problema legato alla forte esposizione sul debito pubblico italiano. Ovviamente le due banche sono fortemente presenti in Italia e questa è la ragione, una attraverso BNL, l'altra attraverso Cariparma. BNP Paribas ha un'esposizione sul debito italiano secondo gli stress test di fine luglio di 21 miliardi e Agricole di circa 9. E quindi mi sembra abbastanza evidente che il problema, la fragilità secondo la quale i mercati valutano le due banche è legata sostanzialmente alla forte esposizione sul debito italiano. Per Société Générale è un pochino diverso, perché la banca è relativamente poco esposta, anzi direi decisamente poco esposta sui debiti sovrani, sono complessivamente 4 miliardi e qualcosa a oggi, insomma alla fine della scorsa settimana, con un'esposizione sulla Grecia intorno a 1 miliardo, sull'Italia intorno ai 2, quindi insomma il problema non è quello, il problema è che la banca non si è scrollata di dosso la fama di banca ad alto rischio sul fronte dei derivati che si è creata con lo scandalo Kerviel del 2009. Il mitico Kerviel, Jérôme Kerviel, tutta colpa sua. Beh, insomma sì, nel senso che è chiaro che quando si tratta di valutare una banca francese, decidere quali titoli vendere, quali titoli comprare, è chiaro che Société Générale continua ad apparire una banca più fragile, anche perché questa trasformazione di fondo annunciata più volte da UDA, e cioè con un forte ridimensionamento dell'investment banking rispetto alla banca commerciale, in realtà è avvenuto in modo relativo. Il 45% degli utili della banca del 2010 sono ancora da imputare all'investment banking, quindi molto sbilanciata sulla parte diciamo più speculativa. Marco, esatto. Resta con noi perché ho il metodo e la pubblicità, mentre ringrazio Vittorio D'Arold. Devo dire una cosa adesso. Certo che se tu dai la colpa, come fece Société Générale, a un ragazzo di 34 anni, Jérôme Kerviel, di averti diciamo, creato 5 miliardi di euro di buco, per carità, lui sarà anche un bandito, ma i vertici di Sogen sono un po' diciamo dei tonti, per essere buoni, non usare altre espressioni. Perché, per cui è chiaro che poi resta il dubbio che quella lì fosse tutto un capro, che lui fosse un capro espiatorio. Meteo, pubblicità, poi ancora una domanda per Marco Mussanè, 349-238-6666 per i vostri sms e poi chiaramente anche il commento di borsa. 17:44 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento con Marco Mussanè, che comunque è già la spiegazione di quello che è successo oggi in borsa: meno 3,90 alla fine Milano, meno 4,03 Parigi, quindi siamo secondi oggi. Unicredit meno 10,91%, Intesa San Paolo meno 9,50%. Marco, visto che tu fai corrispondente dalla Francia per il Sole 24 Ore, oltre ai casi di Société Générale a rischio, grande banca francese a rischio perché è molto sbilanciata sugli investimenti più audaci, derivati e quant'altro, e invece BNP Paribas da un lato e Crédit Agricole, che sono valutate a rischio perché avendo due controllate in Italia come BNL nel caso di BNP e Caripalma nel caso di Crédit Agricole, sono piene di obbligazioni italiane, c'è anche qualche dubbio del mercato sul debito francese, visto che il deficit è alto, è più alto del nostro o no? No, non credo, francamente. Mi sembra che il governo sia intervenuto prontamente di fronte ai dati sul rallentamento della crescita con una manovra da 12 miliardi e rotti. Questo penso che consentirà al paese di confermare, di centrare l'obiettivo del 4,5% di deficit l'anno prossimo e del 3 nel 2013. No, credo che non ci siano grossi problemi su quel fronte, e per arrivare al sodo della domanda, non credo che in questo momento la Francia rischi seriamente la perdita della sua tripla A. L'unica cosa, scusami, ne approfitto, perché nell'intervento precedente ho confuso i dati sull'andamento dei titoli Société Générale Agricole. Sì. Ovviamente è Société Générale che ha perso il 33% nell'ultimo mese e Agricole il 22%. Ne approfitto per ricordare che Société Générale ha perso il 56% dall'inizio dell'anno. Mamma mia. Pure lì non è che vada bene, metà del valore in borsa per Société Générale e in un mese un quinto del valore per Crédit Agricole. Grazie Marco Mussanè, corrispondente sulle 24 ore dalla Francia, e adesso la borsa. Come sempre con Radio Colli sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, di Francia non parliamo più, e anche di Grecia. Non si può neanche dire Francia o Spagna perché se magna, perché qua sia Francia che la Spagna sono messe malissimo. Diamo una prima spiegazione su Unicredit e Intesa e poi dopo il traffico andiamo anche sugli altri titoli. Insomma, la differenza tra quanto perdono le due prime banche italiane e quanto perdono le altre banche è netta, è più del doppio. Eh sì, cioè, comunque va detto che Intesa è la banca che detiene la maggiore quantità di titoli di Stato. Abbiamo visto che i titoli di Stato continuano a perdere terreno, lo spread nei confronti del Bund tedesco si va ampliando. È tornato ai livelli pre-finanziari. Certo. Unicredit continuano a pesare le voci che l'istituto debba effettuare un aumento di capitale, sono voci che si rincorrono ormai da settimane sui mercati. Secondo le ultime indiscrezioni si sta ragionando su un aumento di capitale più soft di 3-4 miliardi, mentre solamente nelle settimane precedenti si parlava addirittura di 10 miliardi. Vorrei ricordare che ad oggi Unicredit, dopo il calo del 10,9% di questa sera, capitalizza 13,2 miliardi, quindi si parlava poche settimane fa di un aumento di capitale che pare quasi al valore adesso. Pazzesco. Dell'intera banca. No, anche perché Intesa, secondo me, dunque, se vado faccio conti a mente, dovrebbe capitalizzare più o meno 17 miliardi adesso. No, al momento ho appena controllato, Intesa vale poco più di Unicredit 13,45 miliardi. No, e ricordiamo che ha fatto un aumento di capitale da 5 miliardi. Cioè, se l'aumento di capitale vuol dire quando tu, insomma, chiedi soldi agli azionisti per aumentare il tuo capitale. Se praticamente se leviamo i 5 miliardi fatti a maggio nell'aumento di capitale, Intesa varrebbe 8 miliardi, e vuol dire che l'aumento di capitale è stato pari al 70% del valore del titolo, cioè una cosa fuori di testa. E così come Unicredit quota meno della metà dei mezzi propri, e anche Intesa ormai quota meno della metà dei mezzi propri, vuol dire che il valore di borsa di questo titolo, di questi titoli, è arrivato ad essere la metà di quelli che sono i mezzi di questi titoli, dalla sede bancaria alle partecipazioni immobiliari a quant'altro. Anche qui capite bene che è un ragionamento da fuori di testa, perché gli immobili, gli investimenti vari, la parte infrastrutturale ha un suo valore oltre che altre voci nel bilancio. Comunque, traffico e poi gli altri titoli del listino. 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, Eleonora Micheli, al di là di Unicredito e Intesa, male oggi anche gli assicurativi, Fondiaria assai meno 8%, eppure le generali prendono una discreta, no, le generali recuperano meno 2,56%. E invece notavo come Monte dei Paschi e Banco Popolare hanno fatto meglio anche dell'indice. Banco Popolare più, meno 1,95, Monte dei Paschi meno 1,6%. Monte dei Paschi e sì. Banco Popolare, ma anche Popolare Milano. Banco Popolare e Monte dei Paschi hanno fatto meglio dell'indice, d'altra parte capitalizzano ben poco e hanno perso tantissimo. Sempre per rimanere in termini di capitalizzazione, il Banco Popolare capitalizza con, dopo il calo di quest'oggi, 1,7 miliardi di euro, ma a gennaio ha lanciato un aumento di capitale da 2 miliardi, quindi capitalizza meno dell'operazione fatta solamente lo scorso gennaio. Discorso simile per MPS, che quest'oggi capitalizza 3,9 miliardi, e solamente a luglio ha chiuso un'operazione da oltre 2 miliardi sempre di aumento di capitale. Quindi praticamente in questi casi è vero sì che hanno perso quest'oggi meno dell'indice, d'altra parte si parla sempre di performance da brivido. Sì, c'è chi vuole ribattezzare Piazza Affari in Piazza dei Martiri, adesso non esageriamo, però che le banche francesi siano state la causa oggi assieme alle incertezze sul rifinanziamento del debito greco, a cui abbiamo dedicato buona parte della prima ora del programma, lo si capisce anche dai migliori e peggiori di borsa, perché al di là di Seat Pagine Gialle sul risparmio meno 16%, BNP Paribas, che è quotata anche a Milano, meno 12%, poi Unicredito meno 10,91%, Crédit Agricole meno 10,33% e Société Générale meno 9,90%, poi c'è Intesa meno 9,78%, il miglior titolo Meridie più 22%, e poi la Lazio più 5,90%. Per cento, bene anche la Save più 2,61%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Respiriamo un attimo e trasferiamoci, si fa per dire, alla Fiera del Levante di Bari. Perché con tutti questi sali e scendi, più scendi che sali, di borsa, cerchiamo anche di occuparci di quello che viene nel resto del paese. Domani Focus Economia sarà in diretta dalla Fiera del Levante, anche mercoledì, poi Salvadanaio giovedì e venerdì. Oggi era per l'apertura della giornata della settimana lavorativa, l'apertura vera e propria è stata sabato, c'era la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, si è parlato molto di manovra finanziaria anche nei vari incontri tra esponenti politici del Meridione, ma non solo, e soprattutto dell'economia del nostro Mezzogiorno. Beh, sicuramente qui a Bari, girando anche tra gli stand della fiera, ho potuto direttamente percepire anche la preoccupazione del mondo dell'imprenditoria pugliese per le ricadute della manovra. E sicuramente mentre si discute, oggi il tema principale è stato quello delle energie rinnovabili, qui alla Fiera del Levante l'attenzione è stata per tutta la giornata costantemente rivolta ai passaggi in aula della manovra. Soprattutto gli amministratori, a partire da quelli regionali, hanno espresso tutte le loro perplessità e le loro criticità sulle ricadute che la finanziaria avrà, soprattutto a loro dire sui servizi che gli enti locali saranno in grado di offrire ai cittadini. Ed è per questo che ad esempio il presidente Vendola ha concordato con le proteste preannunciate dal presidente della conferenza Stato-Regioni sugli effetti della manovra sul trasporto pubblico locale, ma si è discusso molto anche sulle ricadute che questa manovra potrebbe avere sul mercato del lavoro, una manovra che molti qui giudicano depressiva. Sicuramente infatti questo tema ha velato di preoccupazione e anche di, possiamo dire, di amarezza anche per la denunciata assenza ormai ripetuta da parte del Presidente del Consiglio all'inaugurazione qui della fiera, e ha accompagnato un po' tutti i dibattiti. Interlocutore delle lagnanze degli amministratori è stato soprattutto il sottosegretario all'economia Stefano Saglia. Allora, che... Raffaella, facciamo una cosa, perché adesso siamo quasi a ridosso del GR e so che tu hai un'intervista con Saglia che ascolteremo. Hai fatto bene a ricordare che storicamente la Fiera del Levante, che è la rassegna più importante del nostro Mezzogiorno, e quindi come fiera, come elemento fieristico, convegnistico e quant'altro, veniva inaugurata da sempre, Radio 24 fu partner per molti anni, dal Presidente del Consiglio, Prodi, Berlusconi, poco importa. Stiamo parlando di 300.000 metri quadri di superficie, 2.000 espositori, 1 milione di visitatori. Quest'anno e anche l'anno scorso no. Da 3 anni il presidente del Consiglio manca qui all'inaugurazione della Fiera del Levante, e chiaramente questo viene commentato anche non senza un qualche riferimento alle vicende e alle polemiche anche, diciamo, giudiziarie. Sapevo che mi infilavi Tarantini dentro il collegamento. È questo quello che si dice qui, e io faccio la cronaca di quello che ho raccolto. No, tu fai la cronista e lo fai anche molto bene, ci mancherebbe, e anche di giudiziaria. Però, ma oltre a te, guarda, anche gli ascoltatori ci hanno subito infilato Tarantini, ad Addario e quant'altro, e questo è un paese... Però sicuramente, Sebastiano, ecco, per ritornare sui temi economici, diciamo che l'assenza del Presidente del Consiglio in un momento così delicato, in cui si parla di manovra, e nel Mezzogiorno d'Italia che sta discutendo anche di un'ipotesi di un patto per la difesa delle industrie del Sud, lanciato oggi anche dal governatore Caldoro e sottoscritto dal Presidente della Puglia Vendola, viene marcata ulteriormente come, diciamo... La distanza di Roma dal nostro Sud, che in effetti appare abbastanza dimenticato. La battuta che fanno gli ascoltatori, giustificare la mancata vita in procura per la Fiera del Levante, Bari era troppo vicino a Napoli, sono battute che hanno a che fare con la politica, ognuno la pensi come vuole. Berlusconi ha detto che è a Bruxelles e questo è il motivo per cui non si presenta ai PM, l'abbiamo letto, le sappiamo, li leggiamo i giornali. Detto ciò, hai ragione a far notare che, insomma, in quello che è l'avvenimento economico più importante dal punto di vista fieristico, non solo del Sud, storicamente è sempre venuto Presidente del Consiglio, incluso il Presidente Berlusconi, che è venuto moltissime volte. Adesso però resta con noi GR e poi alcune delle reazioni e dichiarazioni che hai raccolto. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni in una giornata che è stata la fotocopia di quella di venerdì: -3,90% Milano, -4% però Parigi, e oggi problemi, lo dico chi si fosse appena messo in collegamento, sono arrivati oltre che da Atene, con i dubbi della Troica se continuare a finanziare la Grecia, sono arrivati, dicevo, dalle banche francesi con cali pesantissimi anche in Francia, appunto la borsa peggiore è Parigi. Perché due banche che hanno controllato in Italia, e mi riferisco a Crédit Agricole con Crédit Parma e BNP Paribas con BNL, sono state attaccate per via della loro esposizione sull'Italia, sulle obbligazioni italiane che hanno in portafoglio. Poi c'è il caso Société Générale, che invece viene ritenuta debole perché ha buona parte dei suoi utili ed è molto esposta su prodotti derivati. Questa è la cronaca, poi vi torneremo della giornata economico-finanziaria. Eravamo e siamo in collegamento con Raffaella Calanda dagli studi di Radio 24 alla Fiera del Levante di Bari. Appunto, si è aperta sabato senza la presenza del Presidente del Consiglio, e già è stata detta, insomma, il malumore che questo ha destato, perché in un momento molto delicato come quello dei tagli della finanziaria, la fiera più importante del nostro Sud ha sempre visto, tranne che nelle ultime due edizioni, la presenza del Presidente del Consiglio. Raffaella, dicevi preoccupazioni sui tagli e sui trasferimenti anche. Esatto, queste sono le preoccupazioni degli enti locali e degli amministratori soprattutto, che chiaramente hanno riversato queste loro preoccupazioni al principale referente politico arrivato oggi qui alla Fiera del Levante di Bari, ossia al sottosegretario all'economia Stefano Saglia, che poi ai nostri microfoni ha chiuso alla possibilità di ulteriori modifiche al testo della manovra, pur sollecitate anche da amministratori di centrodestra come la governatrice Polverini, e ha così poi commentato alle le sollecitazioni dell'Europa rispetto ai paesi sottoposti alle speculazioni dei mercati e all'Italia sulla richiesta di eventuali nuove misure se le entrate fossero inferiori alle attese. Sentiamo l'intervista di Saglia. La manovra, per quello che è la mia opinione, non andava rivista neppure prima. Io credo che la stabilità anche della normativa fornisca la credibilità di un paese, quindi oggi la manovra porta dei saldi addirittura superiori rispetto a quelli che la BCE ci ha chiesto. Se dovessimo fare altri interventi, certamente saremmo in una situazione di emergenza, ma che riguarderebbe anche altri paesi, perché a questo punto noi abbiamo un saldo positivo rispetto a quello che era necessario, che è quasi di 10 miliardi di euro. Oggi è il tempo invece delle misure per la crescita, che il ministro Tremonti e anche il nostro ministero lo sviluppo economico stanno mettendo in campo, perché dopo il rigore e la stabilità dei conti è necessario secondo me, alleggerire il cuneo fiscale, quindi alleggerire le tasse sul lavoro e sulle imprese in modo da consentire una ripresa, una crescita adeguata, perché altrimenti anche i saldi di finanza pubblica senza crescita diventano solo regressivi. Quindi rispetto alla richiesta della Commissione europea? Rispetto alla richiesta della Commissione europea vedremo quale sarà il risultato oggi della visita a Bruxelles del presidente Berlusconi, e quindi noi riteniamo di aver adempiuto completamente a quelle che erano le richieste che venivano. Fuori da questo c'è solo una riforma profonda delle pensioni, che però va fatta con il consenso o quantomeno la partecipazione e il dialogo delle parti sociali e non in maniera estemporanea. Quindi è possibile di inserire una revisione anche sulle pensioni? Nella manovra attuale certamente no. In un provvedimento successivo al termine di un dialogo e di un confronto con le parti sociali, io ritengo che non sia sbagliato una riforma delle pensioni che consenta di finanziare la crescita e di consenta di fare una riforma dello Stato sociale significativa nell'interesse sia di coloro che vanno in pensione sia di coloro che dovranno andarci, e quindi dei giovani. Grazie a Raffaella Calanda in collegamento con noi dagli studi di Radio 24 alla Fiera del Levante di Bari. Domani appunto Focus Economia, e anche mercoledì sarà in diretta da Bari, poi giovedì e venerdì Salva Danaio con Deborah Rochelle. E adesso, prima di tornare ai temi anche italiani, ossia la richiesta che è arrivata dall'Italia che si è unita ad altri 7 paesi di ridurre il budget, le spese dell'Unione Europea di 100 miliardi in 6 anni, pensate, l'Unione Europea ha chiesto di avere dai vari stati membri 1.085 miliardi dal 2014 al 2020, e molti paesi alle prese con la finanziaria li giudicano un po' tantini. Vorrei farvi ascoltare cosa ha appena dichiarato Barack Obama, che è tornato a parlare poco fa, ha terminato, sul mercato del lavoro americano. Ha chiesto al Congresso di approvare rapidamente il piano lavoro. Questa è la legge che riporterà le persone in tutto il paese sul mercato del lavoro. Questa è la legge che aiuterà la nostra economia in un momento di crisi nazionale. È una legge che si basa sulle idee di democratici e repubblicani e che il Congresso deve approvare. No giochi, no politica, no ritardi. Manderò la legge al Congresso oggi stesso e deve essere approvata immediatamente. Io sono qui con persone che trarranno beneficio da questa legge, insegnanti che possono tornare a lavorare nelle scuole per il bene dei nostri figli. Sono qui con i veterani che hanno combattuto per il nostro paese. L'ultima cosa che devono fare è lottare per un lavoro quando tornano a casa. Qui ci sono i poliziotti e i pompieri, il cui lavoro è minacciato dai tagli statali. Questa legge farà in modo di tenere al lavoro sia i poliziotti che i pompieri, così che possano continuare a vigilare sulla comunità. Sono qui con i lavoratori delle costruzioni. Le nostre strade necessitano di manutenzione, così come i nostri aeroporti. Questo può essere fatto dai milioni di lavoratori nel settore. Con questa legge ricostruiremo l'America. Sono qui con i piccoli imprenditori che sanno che per le grandi società i profitti sono tornati, ma non per quelle più piccole che stanno ancora lottando. Questa legge taglia le tasse per le piccole imprese che assumono e per quelle che alzano i salari per i dipendenti. Questo piano eviterà un aumento delle tasse per le famiglie del ceto medio. Se il Congresso non approva la legge, quasi tutte le famiglie in America pagheranno più tasse il prossimo anno. Così Barack Obama, che ha ulteriormente commentato il piano presentato lo scorso giovedì, American Jobs Act, 450 miliardi di dollari, di cui 250 miliardi di sgravi fiscali per le imprese che assumono e per i lavoratori che vengono assunti. Soprattutto le piccole e medie imprese. E poi 105 miliardi per gli investimenti in lavori pubblici e 35 miliardi per insegnanti e poliziotti. Enrico Sasson, direttore della Harvard Business Review, buonasera. Buonasera. Allora, con lei vorrei tenere assieme il Barack Obama che nelle celebrazioni ricorrenze, celebrare non c'era niente, dell'11 settembre, non è stato applaudito mentre è stato applaudito Bush, con questa sua insistenza a parlare sul piano per il lavoro e questa credibilità che sembra molto minata di Barack Obama. Mi dia la risposta però dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora, al direttore responsabile della Harvard Business Review, Enrico Sasson. È sembrato che, insomma, l'America abbia metabolizzato molto in questi 10 anni l'11 settembre, tant'è che poi gli applausi sono arrivati a Bush e non a Obama, forse perché tutta l'attenzione, diciamo, sul presente, su questo piano per lavoro, su una disoccupazione che per la prima volta dal dopoguerra non cala? Beh, i motivi per cui Obama oggi gode di poca popolarità sono molteplici, ma sono anche abbastanza scontati. Ha ereditato una situazione che francamente peggiore di così non avrebbe potuto essere nel 2008 e si poteva tranquillamente dire, credo che molti l'abbiamo detto, che contemporaneamente dover risolvere la peggiore o affrontare la peggiore recessione della storia, i problemi come l'Iraq, un problema come l'Afghanistan, contemporaneamente sarebbero state delle sfide praticamente impossibili da vincere nell'arco di pochi anni, così è stato. Dopodiché le cose sono ulteriormente peggiorate sotto profilo economico, né Bush né Obama, ma neanche chiunque altro avrebbero potuto risolvere da soli una situazione di questo genere. È una situazione mondiale e di conseguenza la popolarità di Obama crolla verticalmente, come sarebbe crollata probabilmente quella di chiunque altro. Forse bisogna dire che ancora a aggravare la situazione, le aspettative nei suoi confronti erano enormi, erano altissime, erano assolutamente realistiche nel 2008 e di conseguenza la delusione è stata ancora più forte, ma forse non per colpa sua. Un po' come in certi rapporti, quando ci si attende molto e poi le cose vanno male, la delusione è più cocente. Molti ascoltatori commentano il piano di Obama, quella sì che è crescita economica e non quello che facciamo noi, cioè gli sgravi fiscali alle piccole imprese. Passerà il piano? Ma il piano potrebbe passare, anche se naturalmente i repubblicani sono molto restii a far passare qualunque cosa rappresenti un potenziale aumento del deficit, che è già molto grave. Naturalmente è possibile che questo piano passi, è possibile anche che abbia qualche effetto positivo, di certo avrà l'effetto negativo di diminuire le entrate fiscali e di conseguenza dovrà contemplare in qualche momento anche una diminuzione delle spese, se non si vuole della spesa pubblica, se non si vuole aggravare ulteriormente un deficit che già non è più considerato sopportabile e lo si vede dall'andamento del dollaro sui mercati internazionali. Molto probabilmente tutto questo, se dovesse andare nella direzione che Obama spera, potrà voler dire maggiore deficit e maggiore inflazione, quindi ulteriore indebolimento del dollaro, ma è una sfida molto azzardata. Sì, oggi Obama ha anche detto che è giusto che i ricchi paghino, le aziende ricche devono pagare, tra l'altro nel giorno in cui la Bank of America ha annunciato un piano di tagli da 30.000 posti di lavoro. Faccio notare che molti dicono che così si fa politica economica, lo abbiamo detto più volte, il governo non può far crescere l'economia in maniera diretta, se volete, perché il PIL cresce per tanti motivi che non sono dettabili dalla legge, però si possono ridurre, nel caso dell'Italia a maggior ragione, le tasse sulle piccole e medie imprese in primo luogo e soprattutto sui lavoratori, e cioè rendere più competitive le imprese da un lato e dare qualcosa in più in busta paga. È il famoso. Sì, sì, certamente si può anche dividere l'economia a pezzi, questo è possibile, cioè è possibile che le piccole e medie imprese con gli sgravi fiscali aumentino l'occupazione nel loro segmento, ma non è detto che questo accada nell'insieme dell'economia. Nell'insieme dell'economia certamente abbiamo visto in passato, già negli anni '80, che gli sgravi fiscali, la famosa curva di Laffer, quello che Reagan avrebbe voluto implementare, non funzionava, perché la relazione non è così semplicisticista, diminuire l'imposizione fiscale per far aumentare il PIL, questo non succede, insomma, in maniera così. Diciamo che in Italia c'è anche il problema del nero, per cui se tu riduci anche di un punto la tassazione su chi evade il 60%, l'effetto non ce l'hai, però sul lavoratore dipendente sappiamo che il nero, obtorto collo, non c'è. Grazie Enrico Sasson, direttore della Harvard Business Review, mentre ci ha raggiunto in collegamento il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, che ringrazio, perché oggi è arrivata una notizia che anche l'Italia si è accodata ad altri 7 paesi per chiedere che l'Europa, che il budget di Bruxelles, dell'Unione Europea, venga ridotto, insomma, se ho ben capito, tra i 50 e i 100

Secondo lei, oltre a essere un budget molto elevato, 1.084 miliardi, è un budget anche non privo di sprechi, questo anche visto che io credo che si possa discutere molto di alcune linee di politica europea e di alcune spese dell'Unione Europea. Ma secondo lei ci sono più sprechi a Roma o a Bruxelles? Ma questo credo che sia una bella scommessa, non saprei dirle se sono più a Roma che a Bruxelles, certamente anche a Bruxelles ce ne sono molti, insomma. E visto che lei ha una grossa familiarità con Bruxelles, lei quando va che cosa vede? Perché da noi si è molto polemizzato sui costi della politica, la buvette, il barbiere della Camera, del Senato, il menù. Insomma, cos'è la cosa che la impressiona di più quando va a Bruxelles? Che c'è un apparato a Bruxelles di funzionari e di strutture che non è assolutamente indifferente. Noi ci lamentiamo dei ministeri italiani, credo di poter dire che l'Unione Europea è molto allineata con i ministeri italiani. È molto allineata o è peggio? Ah, questo non lo so, bisogna mettersi a fare i conti. Ecco, okay, io devo entrare. Allora, io la ringrazio. Quindi, secondo lei tra i 50 e i 100 miliardi potrebbe essere... No, non è secondo me, sono valutazioni che giravano ufficiosamente, nessuno di noi ha espresso... Ma diciamo, ci riserviamo di farlo quando analizzeremo meglio i conti. E tra 50 e 100 potrebbe essere comunque accettabile come riduzione? Cioè un punto percentuale quasi sul budget complessivo? Insomma, è una cifra ragionevole. Allora, la lasciamo, grazie al sottosegretario Mantica che deve arrivare al Quirinale. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto. Avete sentito, insomma, quello che è il budget complessivo e quella che è la richiesta più o meno italiana tra 50 e 100 miliardi assieme ad altri 7 paesi. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.